Cantine di Franciacorta. Benvenuti, siamo a Provaglio di Iseo, ospiti dell'azienda Bersi Serlini, attiva dalla fine dell'Ottocento al confine con il lago di Iseo, in uno scenario che ispira serenità. L'azienda è circondata da 30 ettari di vigneti per una produzione di oltre 200.000 bottiglie l'anno di Franciacorta. Maddalena Bersi Serlini ci racconta di una forte sensibilità ecologica nell'attività della cantina. Sia nel ristrutturare che nell'utilizzo delle attività che la cantina richiede, abbiamo cercato di stare attenti a un minor consumo di energia elettrica attraverso dei tagli nel soffitto della cantina che permettono di dare la luce durante le ore. Per il Festival Franciacorta in Cantina proporrà degustazioni con occhi bendati e video installazioni. Metteremo questi video di quest'artista che si chiama Pippilotti, che verranno mostrati nel buio delle due cantine interrate. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.